sarai scontenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri, e tutti gli altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa! 87.9 Radio Onda Rossa. Questo è Impatto, voci contro le nocività, alle 17.39 di venerdì 17 novembre. E allora oggi iniziamo veramente la trasmissione sul serio, nel senso che la volta scorsa abbiamo fatto una trasmissione introduttiva, oggi iniziamo ad entrare nel vivo del programma e quindi per la scaletta di oggi avremo un approfondimento sulla questione laziale dei rifiuti, perché sabato prossimo ci sarà una manifestazione proprio qui a Roma organizzata da questi comitati. E poi altre news generali che invece riguardano la situazione delle acque nel Viterbese. Tutte, ricordiamo che mentre noi andiamo in onda con Impatto si sta svolgendo alla Sapienza la seconda assemblea NOTAV per costituire un coordinamento, un comitato che immagini qualche iniziativa per il 28 novembre, giornata in cui la linea dell'alta velocità verrà inaugurata a Tiburtina in pompa magna. Quindi a tutti i compagni e le compagne che si trovano in prossimità della Sapienza e vogliono fare un salto, insomma, invitiamo tutti e tutte a passare a questa assemblea che si sta svolgendo alla Sapienza. Bene, di nuovo dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione Impatto. E prima, insomma, di andare a leggere alcune notizie sull'arsenico nelle acque e in particolare nella zona del Viterbese, zona che tra l'altro non è completamente coperta da parte delle deroghe sulla concentrazione dell'arsenico nelle acque potabili, e per questo motivo, insomma, ci sono vari problemi causati appunto dalla mancanza di questa deroga. Nulla lascia al fatto che comunque viene somministrata, anche in presenza della deroga, dell'acqua inquinata. Poi, insomma, è notizia, insomma, di questi giorni che il presidente del consiglio, quello che è stato il presidente del consiglio per parecchio tempo a questa parte, proprio in questa settimana è caduto e il suo governo praticamente si è sciolto. La nomina di nuovo presidente del governo a Mario Monti, nomina portata insomma avanti dal presidente della Repubblica, ci preoccupa alquanto, visto il personaggio, la storia di questo personaggio e le pesanti entrature che questo personaggio ha nel mondo dell'alta finanza. Quindi quasi un peggioramento, si potrebbe dire, della situazione governativa in questo paese, e insomma avremo modo di vedere subito che tipo di manovra e di leggi verranno portate in Parlamento e come queste insomma si ripercuoteranno sulle condizioni di vita e di lavoro di gran parte delle persone in questo paese. Poi in particolare per quanto riguarda questo spazio radiofonico, dovremmo capire se dentro i vari emendamenti, dentro questa finanziaria, è passata anche quella robaccia che prevede maggiore repressione per chi contesta i cantieri della TAV in Val di Susa, proteggendo questi cantieri e minacciando per chi gli invade anche il carcere e multe molto salate. Insomma, questo emendamento ancora non siamo sicuri che sia diventato legge, però già ci fa preoccupare. Perché uno dei punti riguarda proprio i finanziamenti che dovrebbero essere destinati al treno ad alta velocità che deve passare da Torino a Lione. Quindi, insomma, invitiamo anche noi stessi e chi ci gira intorno a prendere notizia su questa cosa e magari darne notizia nella prossima trasmissione. E, insomma, le nostre preoccupazioni rimangono abbastanza, sì, anzi aumentano, visto che questo personaggio si appresta a formare il nuovo governo. Mario Monti, insomma, secondo noi, o almeno per ora secondo me, è espressione delle banche d'affari, dell'alta finanza, insomma il capitalismo assolutamente più rapace e distruttivo che su questo pianeta si sia mai visto. E quindi insomma le conseguenze nefaste secondo me non si attenderà tanto prima di vederle. Poi la considerazione è d'obbligo, anche perché il capitalismo ha fama anche nutrendosi delle risorse ambientali di questo pianeta, quindi essendo questa una trasmissione sulle tematiche ambientali bisogna prendere atto insomma dell'accelerazione probabile che vedremo nel fare emendamenti, nel approvare probabilmente cementificazioni e nuovi cantieri che garantiscano l'accrescimento del profitto e la circolazione delle merci e del denaro. Poi magari ci faremo quattro risate quando capiremo quale maggioranza sosterrà questo nuovo presidente del Consiglio con tutte le alleanze improbabili che probabilmente ne scaturiranno, e quindi insomma sicuramente ne vedremo nelle belle. E insomma i vari personaggi politici ormai insomma altro che riciclati. I campioni del riciclaggio, insomma, sì. Non parliamo del riciclaggio dei rifiuti. Anche perché abbiamo assistito e assistiamo in questi giorni ancora una volta a dichiarazioni assolutamente trasversali rispetto alla gestione del piano rifiuti del Lazio. Insomma, non riusciamo a percepire una presa di posizione reale su quello che è il piano rifiuti del Lazio rispetto alla chiusura della discarica di Malagrotta. Ci sono le dichiarazioni dei Alemanno, consiglieri comunali di Roma Capitale, PD, PDL, che non si discostano minimamente. Questo non ci stupisce, ma noi continuiamo appunto a denunciare la connivenza anche con i signori della Monnezza, e continueremo a farlo in questa trasmissione e nelle prossime. E a Viterbo a rischio la fornitura di acqua per l'università, l'ASL e le caserme e il carcere. Il viterbese è una delle zone, insieme ai castelli romani, che ha il più alto valore di arsenico nel Lazio. Ci sono molti dei comuni di Viterbo, quindi in provincia di Viterbo, che hanno limiti di arsenico oltre i 20 microgrammi litro. E adesso la cosa preoccupante è che, nonostante siano stati fatti pochissimi interventi di ristrutturazione degli acquedotti, c'è forte preoccupazione per quanto riguarda la somministrazione di acque nelle università, nelle scuole, perché comunque sia per questo tipo di strutture l'acqua che proviene dai rubinetti è ancora quella fuori deroga, e soprattutto nel carcere di Viterbo, dove i detenuti cominciano giustamente a lamentarsi del fatto che anche anche l'acqua che proviene da quei rubinetti, acqua all'arsenico, quindi inquinata da un veleno molto pericoloso, nonché cancerogeno, e quindi stanno iniziando a dar vita ai primi malcontenti che ancora non si trasformano in rivolte, perché sono costretti tutti i giorni praticamente a comprare l'acqua in bottiglia invece che poterla bere liberamente dai rubinetti. E poi la cosa ancora più preoccupante è quella che riguarda le mense, sia dei carceri, delle caserme, delle ASL e delle università, perché tutti i beni alimentari che vengono poi cotti con quel tipo di acqua comunque assorbono percentuali di arsenico considerevoli che diventano rischiose per la salute. Quindi questa è la situazione nel Viterbese, dove nonostante siano stati alzati i limiti delle deroghe, ancora alcune città, alcuni piccoli comuni hanno l'acqua al di fuori della potabilità, e ricordiamo che comunque il fatto che dei rubinetti eroghino acqua, non so, per esempio a 17-16 microgrammi litro, che sarebbero comunque valori sotto la deroga, non assicura affatto che quest'acqua sia potabile, perché il limite dell'arsenico a livello di salute umana, di tolleranza, invece si attesta intorno ai 2-3 microgrammi litro. C'è da aggiungere che poi, per quanto riguarda la situazione nelle carceri, è evidente il fatto che per i detenuti che già vivono in luoghi notoriamente poco salubri come sono le carceri, e specialmente le carceri italiane, con pessimi presidi sanitari all'interno, ritrovarsi pure a consumare acqua non potabile non fa altro che appesantire e anche di parecchio questa situazione, perché poi in carcere magari diagnosticare un tumore diventa veramente complicato. Già lo è complicato fuori dal carcere, figuriamoci là dentro. E quindi, insomma, giustamente sia la spesa economica dell'approvvigionamento tramite bottiglie, sia proprio la questione sanitaria in sé, insomma, dentro al carcere la scelta è veramente ristretta, non si può andare a una fonte a caricare l'acqua, logicamente non mancano le proteste da questo punto di vista. Purtroppo, appunto, i piani di rientro, che dovrebbero essere lo strumento normativo che dovrebbe cercare di mettere una pezza a questa situazione, sono lettera morta, probabilmente perché i costi per riuscire a, appunto, a rendere operativi questi piani di rientro sono ormai mastodontici, vista la situazione veramente terrificante in cui versano le sorgenti d'acqua in questa regione. E quindi, insomma, si continua, insomma, invece a semplicemente a bypassare questo problema autorizzando la somministrazione di acqua che è inquinata. Sicuramente nei prossimi mesi le mobilitazioni e la situazione a livello istituzionale, lo scontro politico si riaccenderà, perché poi queste deroghe che permettono la somministrazione di acqua che però è tuttora inquinata scadranno, e ci si ritroverà di qui a poco esattamente come era la situazione dello scorso inverno. E la società Talete, società pubblica di gestione che appunto gestisce il rifornimento idrico nel Viterbese, annuncia, oltre a constatare questa emergenza arsenico, troviamo qui delle dichiarazioni di questa società rispetto alla morosità nel pagamento delle bollette. Qui si parla di morosi eccellenti nella provincia di Viterbo, sono enti pubblici, le ASL a non pagare l'acqua, supermercati ma anche privati, e il signor Marco Fedele, presidente della ditta Talete, annuncia appunto un periodo di tolleranza zero per chi non pagherà le bollette, con 15 giorni di preavviso e di tempo per il saldo, e un secondo preavviso di 5 giorni in caso le bollette non fossero saldate in tempi, appunto in questi tempi di cui vi stiamo parlando, e quindi preannuncia l'interruzione dell'erogazione dell'acqua a numerosissime famiglie e anche agli enti, lo vedremo se insomma staccheranno agli enti pubblici, quindi terremo un occhio aperto, insomma, rispetto a questa questione, perché vedremo se la pratica di autoriduzione delle bollette andrà avanti, se è sintomatica, sicuramente è sintomatica di una problematicità, e come dicevamo anche nella scorsa puntata, proveremo anche a seguire il percorso del post referendario riguardo all'acqua, anche perché ricordiamo che il 26 novembre ci sarà appunto la grande manifestazione. e ovviamente tutta la solidarietà va ai detenuti e alle detenute del carcere Mamma Gialla di Viterbo, costretti a procurarsi da soli e da sole l'acqua per sopravvivere, neanche il minimo indispensabile. Quindi gli effetti della privatizzazione, come spesso raccontiamo da questi microfoni, si fanno sentire sia per quanto riguarda la qualità delle acque che per quanto invece riguarda il prezzo che questa merce viene via via ad acquisire sul mercato. Noi mettiamo una canzone e passiamo invece a parlare successivamente della questione rifiuti e delle manifestazioni razziali. Watch out now. Yeah, yeah. Listen to the first verse. Hey yo, my song's on, I gotta get my grub on some Toto. Order three buckets of Momo, we getting more dough off the bus. You getting jelly, pulling more hoes off the look. You getting jelly, you won't hate me, cause your wifey wants an autograph. I'm looking in her eyes, I can see she wants more than that. When I see fat asses, I make fat passes like quarterback. Beat nuts, all of that, your shit order whack. Oh, pink, I'm dead, I have you fooling with my cheddar. Hard rock, ever since junior high, swell I fly fella. Taking my beats to make your crowd get up, I'm fed up. Niggas wanna bring it, whatever, I'ma storm your purpose. Blow your legs off with a grenade. Now you flapping like a mermaid. Gapping off with your cough and the lips while I'm at the bar. Bagging the bartender tips. Then I bag this chick with a high in the eye. She did the butterfly. Rubbing her ass against my button fly. I could already imagine my shit stuck inside. Every time I strike, haters be like that fucking guy. How's that joke? It's hard for you to swallow. It don't take much for us to let the metal holler. That's what's the matter for old black and fire. Dog nigga only fuck with muchacha mala. Big Jew, dime lo coño. Niggas who campaign to the killers who be loving the chicas and champagne. Thugs who get wild in the club and snatch chain. Players who be pimping the hoes with no brains. Front watch a nigga get shot from close range. The most strange, crazy motherfucker won't change. Beat nuts forever, die hard, you want pain? Cause you walking out of here breathing is insane. Flip a beat fast, you leave the club with a heat rash. You got a weak stash, came in the club with a free pass. I ain't even know they made a rollie for your cheap ass. Making me laugh, you was in jail wearing knee pads. Not a beat pass, gotten over your head, it's over your day. Range Rover, both of your legs, to both of us said. Platinum getting took this year. Cause for real, there ain't nothing but crooks in here, nigga. How's that joke? It's hard for you to swallow. It don't take much for us to let the metal holler. Last person out of old black and pala. Dog nigga, only fuck with muchacha mala. Big Jew, dime lo coño, how we do? How we do? Don't call it love, man, they like you. What you gon' do? What? What you gon' do? What you gon' do? Beat just come through, man. E allora adesso c'è un ascoltatore che con grande solerzia ci ha chiamati, lo ringraziamo per farci notare che bolletta dell'acqua alla mano, spulciandola ha notato che c'è ancora nella bolletta il 7% di utile sulla, appunto, sulla bolletta dell'acqua, che in teoria dovrebbe essere stato abolito dal referendum che c'è stato pochi mesi fa, referendum ricordiamo partecipatissimo, vinto insomma con numeri schiaccianti, però noi continuiamo ad assistere, continuiamo a pagare questo 7% di utile, di profitto puro che sull'acqua le aziende fanno. Allora ringraziamo l'ascoltatore, invitiamo tutti e tutte a partecipare, a segnalarci, e anche dalla prossima trasmissione faremo magari un approfondimento specifico sull'acqua. Ricordiamo che il numero della radio è lo 0649 1750. Chiunque voglia intervenire e farci notare insomma di servizio, o comunque parlarci di questioni relative ad acqua, rifiuti o questioni ambientali, è invitato a partecipare. Allora, già che ci siamo, ricordiamo anche la nostra mail qui in itinere durante la trasmissione, che è impatto@ondarossa.info, proprio perché, come dicevamo nella scorsa puntata, vogliamo avvalerci di tutti i vostri contributi per continuare il lavoro di inchiesta che questa trasmissione porta avanti ormai da un anno. Viva Las Vegas, turn the day into night. I'm turning night into. E allora per sabato prossimo, come annunciato invece nell'introduzione di questa trasmissione, è prevista una manifestazione a Roma, a Bocca della Verità, a partire dalle ore 14.30, indetta dal coordinamento Rifiuti Zero per il Lazio, che è un coordinamento composto da svariati comitati. Entreremo nel dettaglio della composizione di questo coordinamento, ma anche degli altri coordinamenti e comitati che sono sorti nel Lazio durante questi ultimi mesi, da quando si è avuta notizia della possibile costruzione di una discarica a Fiumicino, precisamente a Pizzo del Prete, e altre due discariche temporanee invece che dovrebbero sorgere, così dice il prefetto Pecorario, a Riano, Quadroalto per l'esattezza, e a San Vittorino invece la Corcolle, quindi la seconda discarica. Quindi questa manifestazione è una manifestazione che cerca di unire i vari comitati regionali, appunto per mobilitarsi in questo momento contro l'apertura delle discariche di Riano e di Quadroalto, che sono le prossime praticamente discariche che dovrebbero essere occupate, e successivamente, in teoria, a quanto dicono i politici e tecnici di turno, fra 36 mesi, da quando che verranno messe in esercizio queste prime discariche, ci sarà la discarica di Pizzo del Prete e di Fiumicino. Sì, la situazione è abbastanza ingarbugliata sia per un gran numero di località sia temporanee che definitive scelte appunto per sostituire la chiusura di Malagrotta, e questa insomma confusione ci dà da pensare che insomma la Regione Lazio da qui a breve non sarà pronta ad affrontare la eventuale chiusura di Malagrotta, tant'è che insomma già si vocifera il fatto che la proroga per quanto riguarda lo sversamento dei rifiuti nella discarica di Malagrotta verrà prolungata fino a marzo, perché evidentemente ci vogliono almeno 3 mesi per scavare un qualsiasi invaso. Insomma, giù ad Albano, nella discarica di Roncigliano, abbiamo visto, seguito attentamente i lavori, e più o meno quelli sono i tempi per costruire un invaso dove scaricare l'immondizia. Quindi la situazione, appunto, visto che le nuove discariche ancora non sono operative e gli iter amministrativi che dovrebbero insomma permettere l'apertura di questi posti sono praticamente al palo, i vari comitati che insomma si riuniscono sotto la sigla Coordinamento Rifiuti Zero per il Lazio, che insomma riunisce parecchie realtà del quadrante nord del quadrante a nord di Roma, precisamente insomma al comune di Fiumicino, al comune di Cerveteri e le varie frazioni di questi comuni. Parliamo di un territorio molto vasto e dedicato all'agricoltura, e quindi insomma con parecchie frazioni isolate una dall'altra che praticamente non riescono, cioè che si stanno coordinando tra loro per appunto impedire che la discarica definitiva a Pizzo del Prete venga aperta. Ma insomma un elemento di novità è che già insomma si era segnalato in altre iniziative, è quello che comunque anche i comitati delle cosiddette discariche provvisorie partecipano a questa iniziativa, appunto perché stiamo parlando della gestione dei rifiuti in questa regione, ed è una gestione assolutamente integrale, e quello che succede in un posto sicuramente ha delle conseguenze in un altro posto ancora. Anche perché fa tutto parte dello stesso piano rifiuti laziale che è stato varato qualche tempo fa dalla giunta Polverini, ma è un piano laziale ancora piuttosto fumoso, tanto da non essere neanche chiaro agli stessi politici capitolini, perché Alemanno continua a fare dichiarazioni che sembrano insomma chiarire il fatto che lui non l'abbia affatto letto questo piano rifiuti, ma forse non è neanche una sua colpa, perché questo piano rifiuti abbiamo provato a leggerlo anche noi, la prima copia che uscì qualche tempo fa non era una copia molto dettagliata, era una copia piuttosto approssimativa, e questi ultimi provvedimenti, quelli di Corcolle, di San Vittorino, quindi e anche di Riano, sono stati presi attraverso un commissariamento straordinario che è quello del prefetto Pecorario, e quindi non è passato diciamo per la totale più chiara e trasparente forma come decisione. Sì, c'è da notare che insomma in ogni territorio dove si è proposto di aprire una nuova discarica si sono aperte grosse contraddizioni all'interno delle compagini elettorali partitiche che si trovano in quel territorio. Quindi molto spesso ci si ritrova a fare anche manifestazioni di protesta contro le discariche con partiti, pezzi di partiti che invece quelle decisioni l'hanno prese. Logicamente questa situazione da un punto di vista politico non può durare a lungo, insomma i responsabili delle organizzazioni che hanno preso queste decisioni o si dissociano completamente da quello che hanno fatto i loro capoccia sopra di loro o cominciano insomma a dare segni di schizofrenia. Sì, perché sia almeno per quanto riguarda Ariano ci fu la cosa per esempio di Marrazzo che scese in piazza per protestare contro la discarica di Ariano perché lì c'è la sua villa e quindi insomma una sindrome NIMBY che ha investito anche l'ex governatore della regione Lazio. Però sono anche altri, diciamo, i partiti e personaggi di partito che scendono in piazza a manifestare con la popolazione. Il PDL e il PD hanno rilasciato diverse dichiarazioni, sono scese nelle piazze con i cittadini, però come diceva prima Paolo è straordinario, perché comunque sia straordinario nel senso negativo, perché comunque sia abbiamo la Polverini e Alemanno che poi perseguono una politica di rifiuti e invece magari i rappresentanti delle sedi locali che vanno contro gli stessi capi dei loro stessi partiti. Quindi c'è un fenomeno di totale contraddizione che ovviamente è portato avanti per uniche pratiche opportunistiche di future elezioni in quel di Riano piuttosto che in quel di Corcolle e così via. Sì, infatti poi anche su Corcolle le dichiarazioni precisamente contraddittorie tra la Polverini e Alemanno hanno avuto grossa eco sui giornali proprio appunto per questa grossa contraddizione tra i due rappresentanti istituzionali. Cioè, insomma, sicuramente questa situazione è una situazione molto grave e pericolosa perché in questo momento comunque sia le istituzioni stanno valutando che decisioni prendere e lo stanno facendo in base ai rapporti di forza che interni alle varie compagini istituzionali. È evidente che insomma c'è una guerra tra bande che cerca di accaparrarsi il mercato dello smaltimento dei rifiuti e la compagine politica sostiene o una ipotesi industriale oppure un'altra ipotesi industriale. Quindi magari lo stesso PD nella zona di Corcolle è contraria, il PD capitolino è contraria all'apertura della discarica, poi magari nella zona di Fiumicino è assolutamente favorevole. Questo tipo di dinamiche da parte dei comitati va assolutamente spezzato proprio per non ricadere in un stupido campanilismo che purtroppo fa comodo soltanto a chi poi vuole aprire queste discariche, e probabilmente la compattezza e l'unità dei territori contro queste ipotesi è l'unico strumento che abbiamo in mano per rigettare questo tipo di operazioni. Giustamente è un percorso complicato e lungo, ma bisogna insomma affrontarlo, e le fasi iniziali, soprattutto quando appunto ci sono questi grossi momenti di contraddizione, appare più complicato. Proprio per questo, insomma, tra qualche minuto faremo una corrispondenza con alcuni compagni dei comitati che si battono contro l'apertura della discarica di Pizzo del Prete e ci spiegheranno insomma come è nata questa iniziativa e chi sta aderendo e quali sono le finalità e le prospettive che ha questo movimento appunto che si batte e vuole impedire che non solo la discarica venga fatta a Pizzo del Prete, ma che si esca insomma da questa gestione dei rifiuti. We'll be right back. E ci incuriosisce leggere le ultime dichiarazioni del nostro sindaco Alemanno, che invita il prefetto Pecoraro ad ascoltare i movimenti che si battono e lottano contro l'apertura delle discariche a Corcolle e San Vittorino in particolare. E Alemanno dichiara appunto che è necessario ascoltare le istanze dei movimenti che si stanno formando e che stanno intraprendendo questa lotta. E ci stupisce, insomma, ci fa sorridere come il sindaco sia sensibile alla necessità degli abitanti di questi territori, dei comitati, di appunto come sia sensibile alle loro necessità, alle loro rivendicazioni, quando nella sua città, nella città di cui è amministratore, vieta ogni forma di manifestazione e porta avanti una politica di repressione tout court per tutto ciò che riguarda, per ogni forma di manifestazione, ricordiamo appunto insomma, ciò che è successo con gli studenti medi qualche settimana fa, ricordiamo che appunto è stato prorogato questo divieto per i cortei fino a dicembre e insomma staremo a vedere adesso quali saranno oggi invece dice che bisogna ascoltare i comitati. Però quando i comitati manifestavano a Malagrotta lui non se l'è filati proprio minimamente, ma se i comitati manifestano nel primo municipio? Quello è un po' il problema, no? Che fino a che i comitati stanno a Riano, stanno altrove, bisogna ascoltarli. No, queste cose sono le bagarre interne al PDL di cui facevamo menzione prima, tra Alemanno che non vuole leggere il piano rifiuti, va a Corcolle a fare dichiarazioni dicendo qui non ci sarà mai una discarica, potete stare sicuri, vi difenderò col mio corpo, e la Polverini che gli dice caro, è la regione che decide su Corcolle, quindi non ti concedere dichiarazioni che non ti puoi permettere, insomma cerca di ridimensionarti. E abbiamo anche altre dichiarazioni fresche di giornata del signor Di Cosimo, consigliere PDL di Roma Capitale, che dichiara che la discarica a Corcolle è assolutamente inappropriata, che la scelta di una discarica a Corcolle è sbagliata e inadatta, citiamo testualmente, perché questa zona è una zona archeologica e perché sono emerse delle criticità che rendono difficile la realizzazione di un sito, perché appunto Corcolle è tutelata con vincolo di carattere archeologico paesaggistico, quindi giustamente noi insomma siamo per la tutela del territorio anche e soprattutto insomma della storia di un territorio, però ci sembra assolutamente opportuno che delle persone si ammalino di varie forme di malattie, di varie patologie, di tumori in primis, diciamo il fatto che venga, che la prima diciamo argomentazione che viene portata contro l'apertura di questa discarica a Corcolle sia la motivazione archeologica, questo ci fa intendere appunto anche un non po' non è nella politica diciamo del PD, nel senso non dicono siamo contrari alle discariche quindi non le faremo, è che lì c'è un sito archeologico e quindi not in my backyard, no? Una solita sindrome NIMBY, e la stessa cosa segue con le dichiarazioni di altri esponenti di partito. Sì, ad esempio del signor Marroni del PD, capogruppo PD di Roma Capitale, anche Marroni ribadisce che bisogna abbandonare questa strada dell'arroganza, cito testualmente, ascoltare le istanze, peraltro in questo caso legittime, guarda un po', questi si sono svegliati, gli uomini e le donne dei comitati di lotta sono nella piena e totale legittimità, se lo dice il signor Marroni, allora abbiamo questa garanzia. Appunto l'ipotesi di Corcolle è una scelta errata da un punto di vista strutturale, logistico, ambientale e fino anche archeologico, e non inficia minimamente il piano rifiuti predisposto dal prefetto. Tra l'altro abbiamo anche dichiarazioni di Pecoraro che agli inviti di Alemanno, di Marroni, insomma dei vari esponenti della politica capitolina ad ascoltare le istanze dei comitati, Pecoraro risponde che lui si confronta solo con le istituzioni. Sì, ricordiamo brevemente che il signor Marroni, capogruppo del PD capitolino, è anche un notissimo amico di Manlio Cerroni, tant'è che organizza bei convegni sullo smaltimento dei rifiuti e su quanto è stato bravo Cerroni nella gestione di Malagrotta dentro il Campidoglio, Non ultimo, il bellissimo convegno organizzato il giorno dell'udienza al TAR per quanto riguarda l'inceneritore d'Albano, in cui il titolo del convegno era pressappoco che gli impianti già autorizzati dovevano essere costruiti. E questo convegno si svolgeva esattamente lo stesso giorno che si svolgeva l'udienza dentro al Tribunale Amministrativo. Quindi solo per dire, insomma, quali bande si stanno scontrando e come sono dislocati gli interessi su questa faccenda. È evidente che aprire una discarica a Corcolle è folle per tutta una serie di motivi che abbiamo ripetuto un bel po' di volte, però non è folle aprirla in un altro posto dove magari i soldi ce li fa gli amici nostri, e in questo caso Maglio Cerroni. Quindi, insomma, più che pensare alla salute e al benessere delle persone, della popolazione, si continua, insomma, invece a difendere il proprio orticello o semplicemente i propri finanziatori delle varie campagne elettorali. Noi su queste dichiarazioni cerchiamo di metterci in contatto allora con chi sta organizzando la manifestazione, lo ricordiamo, di sabato 19 novembre alle 14.30 a Bocca della Verità. In onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre la trasmissione Impatto, e abbiamo un collegamento, come avevamo anticipato, un compagno della rete rifiuti, coordinamento rifiuti zero per il Lazio. Ciao Luca, ci senti? Ciao, buonasera a tutte e tutti. Ciao. Senti, sentivo in sottofondo una bella musica Sky, erano gli Specials. Amy Winehouse. Ah, grazie dell'informazione. Allora, insomma, ti chiamavamo, insomma, per parlarci di questa mobilitazione di sabato 19 novembre, ore 14.30, piazza della Bocca della Verità. Esattamente. Come si è arrivati a questa mobilitazione, e anche, insomma, per ribadire che situazione c'è nel dintorni di Pizzo del Prete e che questo progetto di aprire una discarica, insomma, è abbastanza pericoloso per tutto quel territorio. Beh, ovviamente innanzitutto bisogna dire una cosa. Vabbè, noi nasciamo come comitati che lottano contro la possibilità della discarica di servizio dell'inceneritore perenne a Pizzo del Prete, perché il progetto infausto, che poi non è nemmeno un progetto perché è qualcosa di raffazzonato che corrisponde a degli interessi di due cordate che si fronteggiano, quella di Cerroni e quella che fa capo agli amichetti d'Alemanno, diciamo che hanno individuato, grazie al commissario speciale Pecoraro, che commissario che fa fronte alla loro incapacità di esporsi nemmeno con un progetto credibile, cosa che noi lo scorso 19 settembre al Consiglio regionale abbiamo messo in discussione e abbiamo fatto calare la maschera. Quindi abbiamo capito che dietro la Polverini e l'attuale maggioranza c'è chi vuole diciamo mettere la parola fine all'agricoltura del Lazio, chi vuole avvelenare i territori e le popolazioni. Sono stati costretti a dichiararsi con un voto. Ci sono anche molte ambiguità, te lo dico, da parte dell'opposizione, soprattutto del PD, che ancora sugli inceneritori e sugli impianti insomma mantiene un'ambiguità, e noi stiamo lavorando contro questa ambiguità. Comunque la nostra parola d'ordine né qui né altrove, quindi abbiamo un interesse specifico per contrastare il progetto a Pizzo del Prete di inceneritore e discarica, ma ci battiamo per i diritti di tutti coloro i quali hanno problemi nel Lazio, da Albano con il progetto inceneritore che è stato fermato, il problema del settimo invaso con oltre 500 il conferimento di oltre centinaia di migliaia di tonnellate nel settimo invaso, dopo che anche lì c'è una specie di mini media malagrotta, insomma, no, da anni che esiste. E poi siamo a fianco anche dei problemi delle popolazioni di Riano e Corcolle, perché ogni sito è uno peggio dell'altro, ha dei problemi, ma poi noi contestiamo proprio il sistema della discarica dell'incenerimento, perché è un sistema obsoleto che ha una soluzione. Quindi te lo dico chiaramente, a noi non interessa soltanto il contestare i siti, ci interessa di fornire una indicazione alternativa, perché qualsiasi persona che ti ferma ti dice vabbè, ma allora dove la se fa la discarica? No, non si deve fare da nessuna parte, perché noi siamo per l'estensione della raccolta porta a porta e dopo creare idonei impianti per i rifiuti che prevedono il riciclo della parte solida, mi spiego meglio, plastica, vetro, metallo, legno, carta, questa è la fase solida. Poi c'è la fase umida, che quella invece va in impianti di compostaggio, che però devono essere fatti in maniera anche loro che non emettano inquinanti particolari, quindi non diano corso a degassificatori pericolosi e quindi servono per l'agricoltura. In base a questo principio si può riciclare il 98% dei rifiuti. I vantaggi, punto interrogativo, i vantaggi sono la salute, le bollette dei cittadini che diminuiscono e i comuni che hanno fondi a disposizione senza magari mettere l'ICI, ma fondi, parliamo di centinaia e centinaia di migliaia di euro per fare le strade e aprire scuole. Allora noi domandiamo questo: qual è l'interesse comune e collettivo? Quello di fare discariche e inceneritori o quello di fare impianti alternativi? Ecco perché siamo a Roma. Perché siamo a Roma sabato? Mi senti? Sì, sì, certo, ci siamo. Allora, saremo a Roma sabato perché Roma sta al cuore del problema nostro. Abbiamo manifestato nei nostri territori, sono state manifestazioni sia nel nostro territorio, sull'Aurelia, già da giugno, Ariano, quando vi è stata la dichiarazione del commissario Pecoraro con 3.000 persone, sono scesi a Ariano, a Corcolle, ci siamo ovunque incatenati, abbiamo fatto delle varie dimostrazioni, siamo stati anche alla Regione Lazio, al Consiglio della Pisana, e nonostante le ore diciamo, feriali e impossibile per chi lavora e per i cittadini. Abbiamo fatto manifestazioni con centinaia di cittadini e, come ti spiegavo prima, siamo riusciti a ottenere, dopo l'occupazione della sala degli Etruschi il 28 settembre, un consiglio straordinario che è stato costretto a votare. Noi avevamo la nostra mozione, ma non ci facevamo nessuna illusione, perché fiducia in queste amministrazioni ne abbiamo zero. Noi siamo rifiuti zero, siamo contadini che, cittadini che, anche contadini, che contano zero, ma gli zeri accumulati uno appresso all'altro possono fare una grande forza. E saremo a Roma, perché a Roma c'è il nostro problema, perché tra l'altro sui nostri territori si dovrebbe riversare tutta la spazzatura di Roma. Allora non si tratta di fare un discorso, diciamo, corporativo. È chiaro che non ci piace la monnezza di Roma, ma il problema della monnezza di Roma si risolve a Roma, portando le dimostranze a Roma e spiegando alla popolazione di Roma, che a poco sta diventando sempre più informata con la nostra iniziativa. È chiaro che non è che ci abbiamo i network a disposizione, ecco perché sabato è fondamentale creare un momento di visibilità a Bocca della Verità. Naturalmente noi abbiamo chiesto l'autorizzazione per la piazza del Campidoglio, ma la democrazia borghese, insomma, degli inceneritori, dell'affamamento delle popolazioni col lavoro precario, non prevede naturalmente questa possibilità, e quindi ci siamo presi piazza Bocca della Verità, che forse è più, tra l'altro, anche più vedibile, insomma, dall'esterno. Senti Luca, prima da questi microfoni, insomma, parlavamo della guerra tra bande che c'è dietro lo smaltimento dei rifiuti, e insomma la notizia che ci dici che il sindaco Alemanno, per la vostra iniziativa, per questa iniziativa al Campidoglio, non ha permesso, però comunque si è ripetuto il divieto di manifestare in quel luogo, mentre poi invece dai giornali leggiamo che invita le istituzioni ad ascoltare i cittadini di Colle San Vittorino, perché lui lì c'è andato, ha detto delle cose e quindi insomma c'ha paura di perdere voti da quelle parti. Quindi sto comportamento anche schizofrenico, perché i comitati di Colle San Vittorino vanno ascoltati, che magari verranno anche il 19 all'iniziativa, e invece quelli di Fiumicino o di altri siti non vanno ascoltati. È evidente che davanti agli interessi, innanzitutto noi dobbiamo, stai dicendo una cosa, diventa sempre più evidente come sia soltanto difendere o gli interessi economici oppure solamente il bacino elettorale da parte di questi personaggi. Ma innanzitutto noi del coordinamento del Lazio, ti informo che ultimamente hanno aderito anche Riano, cioè Riano sta nel coordinamento del Frizzero per il Lazio, e ci sta anche Corcolle. Quindi diciamo il coordinamento del Friuli-Venezia Giulia Lazio attualmente è costituito e integrato da coloro i quali, comitati del nord-ovest, noi che ci muoviamo sulla tematica Pizzo del Prete, Riano e Corcolle. Poi c'è anche un altro piccolo comitato, il comitato di Friuli-Venezia Fiumicino, che fa capo a un personaggio folcloristico, sia Piras, che ha aderito, hanno dato, ci saranno, anche noi ci siamo stati alla loro manifestazione del 5. Il problema è cercare di creare invece proprio le contraddizioni, cioè nel senso, innanzitutto la macchina della disinformazione, di queste persone è già in funzione da giorni. Voi avete visto i muri di Roma, manifesti, declaratori roboanti sulla chiusura di Malagrotta, no? Che Malagrotta diventerà presto, nei prossimi anni, addirittura un parco dove ci saranno gli scoiattolini, no? Che cammineranno, e tutte queste cazzate varie. È pura propaganda, come la propaganda quella che fa la Polverini alla Regione Lazio, perché non dimentichiamo, c'è un problema Alemanno e Polverini, ma tutti questi amministratori, grandi e piccini, così fa pure la rima, sono soltanto dei meri pupazzetti messi là da un comitato d'affari, come credo voi, no? Stavate discutendo prima, che deve fare affari sulle spalle della gente. Se noi abbiamo chiaro sto disegno, abbiamo chiaro una cosa, che soltanto l'unità dei comitati, come è successo sull'acqua, può vincere questa battaglia, perché questa battaglia si vince su due terreni, su un terreno giuridico, ma siccome io poi ti ripeto, fiducia nello Stato, noi non abbiamo fiducia nello Stato borghese, nelle istituzioni non ne abbiamo, abbiamo soltanto fiducia nei rapporti di forze che riusciamo a costruire, perché questa è una società violenta, barbarica, non è un pranzo di gala, e quindi il più forte vince. Noi dobbiamo essere più forti dell'avversario. Come? Ecco perché ci chiamiamo il popolo degli zero, nessun riferimento ai tali popoli, viola, tutte queste stronzate qui che durano 2 secondi e mezzo, indignati e tutte le dichiarazioni della stampa. Si tratta di mettere in fila tanti zero. Noi contiamo zero da soli, ma uniti siamo 2 milioni e mezzo, e 2 milioni e mezzo pesano come bacino elettorale, pesano nelle contraddizioni che stanno creando all'interno della maggioranza regionale, il PDL compreso, e nella cosiddetta opposizione e nel cosiddetto PD. Alla fine le contraddizioni verranno fuori. Tutti ricordi che sull'acqua all'inizio i signori Di Pietro e PD avevano delle posizioni, anzi la privatizzazione dell'acqua, poi sono stati forzati a cambiare opinioni dalla mobilitazione, l'ha cominciato il centro-sinistra, non il centro-destra, se ben ricordo. Sì. Pronto? Sì, ci siamo, risentiamo, siamo d'accordo, Luca. Sì. Ci senti? Sì. Volevo sapere, ricordiamo l'appuntamento con la manifestazione, chi ha aderito. Sì, se puoi velocemente, perché noi purtroppo siamo in chiusura, quindi se in un minuto ci dici le adesioni e ricordiamo l'appuntamento. Guarda, per ora ecco, il coordinamento Rifiuti Zero per il Lazio, che consta dei comitati originari del Nord-Ovest che il 2 agosto hanno dato vita di quest'anno al coordinamento, c'è Riano e c'è Corcolle. Poi come adesioni esterne, che molto correttamente però si sono attenuti alla linea che dà il coordinamento, che ribadisce la manifestazione no a discariche inceneritori in ogni posto del Lazio e d'Italia, e porta a porta subito a Roma e in provincia gli impianti alternativi e posti di lavoro. A questa piattaforma per ora sono arrivate anche le adesioni di alcune organizzazioni politiche, come la Federazione della Sinistra, come i Verdi, come i Comunisti Uniti del Lazio, alcune organizzazioni sindacali come la USB, e soprattutto la USB e la Federazione della Sinistra mi sembra che hanno mobilitato tutte le loro strutture periferiche, non per il successo della manifestazione, e i Verdi Ambiente e Società e altre piccole organizzazioni. Aspettiamo anche l'adesione, ma ancora non è ufficiale, dei comitati per l'acqua del Lazio, e quindi insomma stanno arrivando altre adesioni. Adesso il nostro gruppo che si occupa insomma di questo settore ci deve dare le comunicazioni ufficiali. Quindi una vasta partecipazione, diciamo. Aggiungiamo anche il coordinamento contro l'incendio d'Albano tra i movimenti che hanno aderito, e che, come ricordavi tu, si muove invece sul versante di discariche. Siamo contentissimi, sì, volevo anche citare il movimento di Albano, con il quale noi abbiamo un rapporto insomma molto proficuo da alcuni mesi, insomma. Ricordiamo allora, siamo pronti ad andare anche come comitati, insomma, in solidarietà alle loro istanze, insomma, siamo stati presenti anche alla loro manifestazione. Allora Luca, noi ti ringraziamo tantissimo del prezioso intervento che hai fatto nella nostra trasmissione, e ricordiamo allora a tutti e a tutte, agli zeri anche di Roma, visto che, come dicevi giustamente tu, questo non è un problema di piccoli territori nella campagna laziale, ma è un problema romano, quindi anche appunto i cittadini di Roma capitale devono assumere come proprio. ricordiamo quindi a tutti e a tutte l'appuntamento sabato in piazza Bocca della Verità alle 14.30, manifestazione indetta dal Comitato Rifiuti Zero per il Lazio, dal Coordinamento Rifiuti Zero per il Lazio, perdonami, appunto manifestazione contro discariche e inceneritori, perché la monnezza fa schifo da tutte le parti. Allora, grazie a voi e un saluto a tutti i compagni in carcere. Ciao, grazie. Ciao, Luca, grazie. Ci sentiamo. Ciao. How did we get to this? How did we get to this, Lord? How did we get to this? How did we get to this, Lord? How did we get to this? Bene, insomma, dopo questa ultima corrispondenza andiamo ai saluti. Ricordiamo che stiamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Il numero di telefono è 49 17 50. E ricordiamo insomma il fatto di mettersi in contatto con la mail della trasmissione per segnalarci appunto problemi legati alle nocività. E ricordiamo inoltre che giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 è stato indetto un presidio cittadino ad Albano Laziale, sotto il comune di Albano Laziale, per ribadire il no delle popolazioni all'ipotesi di inceneritore e all'ingrandimento della discarica, e soprattutto per insomma mettere con le spalle al muro gli amministratori dell'amministrazione comunale, che negli ultimi tempi si sono visti protagonisti di operazioni veramente poco brillanti, che hanno comportato grossi sacrifici e comportano gravi problemi di salute per gran parte della popolazione che risiede intorno alla discarica. Quindi ricordiamo a tutti sabato 17 giovedì 17 novembre alle ore 16.30 nella piazza davanti al Comune Almano, presidio cittadino. Bene, allora siamo in conclusione della trasmissione per questa settimana. Ricordiamo l'appuntamento con Impatto, trasmissione che segue le lotte contro le nocività nel Lazio e in tutta Italia. Ricordiamo la nostra mail impatto@ondarossa.info. Scriveteci, informateci di insomma tutte le situazioni che ritenete attinenti o che vogliono prendere parola in questa radio, per tutti coloro che non hanno parola sui media mainstream. E arrivederci a lunedì prossimo alle 5:30.